quando sferri pugni e non sai più se sei te stesso un altro uomo, invece sono io, sono la bestia. Vienimi a prendere se mi vuoi irrazionale, stupido. Senti i miei denti che scavano che hai nel ventre senza pietà.